Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo del capitalismo italiano di Sandro Trento. Buonasera, professor Trento. Buonasera. Sandro Trento, professore ordinario di strategia d'impresa nella Facoltà di Economia dell'Università di Trento, è stato al Servizio Studi di Banca d'Italia, successivamente direttore del Centro Studi Confindustria, ha già pubblicato per Il Mulino, con cui esce anche questo libro dedicato al capitalismo italiano, il libro sul governo dell'impresa. Quindi un libro sul capitalismo italiano, un po' la storia economica dell'Italia di questi ultimi 50 anni, di questo dopoguerra. Ecco, si può parlare, forse la prima domanda per il professor Trento è proprio questa del titolo. Si può parlare di un'Italia che fa parte del sistema capitalistico? Sì, sicuramente si può parlare. Diciamo, l'obiettivo del libro è un po' di mettere in luce le caratteristiche peculiari del capitalismo italiano. C'è una grande letteratura oramai da alcuni anni sui modelli di capitalismo e si contrappone tradizionalmente il capitalismo anglosassone al cosiddetto capitalismo continentale o coordinato, di cui la Germania o il Giappone sono degli esempi. Il libro vuole un po' dire che c'è anche una terza via, che c'è un modello diverso da tutti e due, è il capitalismo italiano. Ecco, un capitalismo italiano, qualcuno ha detto siamo al quarto capitalismo, il capitalismo delle reti, il capitalismo che viene dopo il terzo capitalismo, che sarebbe quello dei distretti, delle piccole imprese. Ma ecco, al di là di queste definizioni, è un capitalismo in cui comunque il ruolo dello Stato è ancora molto forte. Sì, anche se a mio avviso è diminuito in maniera significativa a partire dagli anni 90. Noi a partire dagli anni 90 abbiamo realizzato il secondo più grande programma di privatizzazioni mai realizzato al mondo, quindi sotto il profilo quantitativo è stato un processo imponente, parliamo degli anni che iniziano nel 92-93, e la presenza diretta, diciamo, dello Stato come Stato imprenditore è molto diminuita. Certo, rimane ancora un'interferenza dello Stato nell'economia, questa sì. Ecco, questo capitalismo di Stato è quello che lei appunto nel libro definisce come secondo capitalismo dopo il primo capitalismo, quello del decollo industriale incentrato sulle grandi famiglie industriali. Quindi siamo veramente in un quarto capitalismo che è la parte più dinamica del terzo, costituito dalle multinazionali tascabili, società di medie dimensioni che operano su scala internazionale, sono organizzate come le multinazionali più grandi e famose. Ecco, quindi il capitalismo italiano ha comunque, qualcuno ha detto, anche lei lo stesso lo ricorda nel libro, è un capitalismo senza capitali. Ha trovato in questa dimensione familiare di media impresa una capacità di essere competitivo in una realtà che è di fatto poco competitiva come quella dell'economia italiana? Effettivamente è così, diciamo, non a caso io ho intitolato quel capitolo Nuove Vitalità, proprio per dire che in realtà il quadro attuale del capitalismo italiano non è un quadro del tutto negativo, al contrario, esistono una serie di segnali per cui il nostro paese è un paese ancora molto vitale. Le medie imprese, quello che appunto lei ha definito il quarto capitalismo, sono un pezzo, diciamo, di questa nuova vitalità. E poi ci sono appunto le reti e così via. Quindi la cosa interessante è che nonostante siamo un paese nel quale la giustizia civile è lentissima, la pubblica amministrazione è inefficiente, il sistema bancario non sia proprio brillante, esistono migliaia di imprese di media dimensione che riescono a competere con successo sui mercati internazionali. Questo, diciamo, è un elemento di ottimismo. Ecco, possiamo dire che sono imprese che crescono nonostante uno scenario esterno che, come lei giustamente diceva, è fatto di tanti elementi che sembrano limitare, bloccare, portare delle difficoltà alla crescita delle imprese, dalla giustizia, alla burocrazia, al credito, tutti elementi su cui si è parlato molto spesso, che sono difficili da riformare, ma che comunque non sembrano soffocare quella che è la vitalità, il coraggio, la passione in fondo dei medi imprenditori italiani. Esattamente. Certo, l'altro lato della bilancia è dato dal fatto che l'Italia è uno dei paesi industriali più grandi che intercetta la minor quota di investimenti diretti esteri, quindi se esistono, come dire, degli eroi nazionali che investono nonostante tutte queste difficoltà, purtroppo queste difficoltà scoraggiano poi gli investitori stranieri a venire nel nostro paese. Quindi questo elemento di ottimismo non ci deve, come dire, confortare al punto da dire non serve fare le riforme strutturali, perché è evidente il fatto che investitori internazionali non vengano nel nostro paese. Certamente, anche perché l'investitore ha sempre una prospettiva di medio periodo. L'Italia sembra invece ragionare molto spesso sul breve periodo, addirittura vediamo cosa sta succedendo con questo governo. Era nato con una prospettiva di un anno, ma subito si è messa in discussione se questa prospettiva di un anno, che è già una prospettiva molto limitata, dovesse essere rispettata. Forse siamo un po' troppo portati magari dalle situazioni politiche a dover ragionare sul brevissimo termine? Sì, questo diciamo è quello che Padoa-Schioppa diceva, no? Che le classi dirigenti italiane dovrebbero avere la vista lunga, e invece ci manca proprio questa vista lunga, soprattutto in questi ultimi, direi, 15 anni. Siamo un po' ricattati da questo breve termine, per una serie di ragioni, un po' perché la politica purtroppo non funziona bene, ci sono una serie di considerazioni da fare anche sulle regole della politica, forse, no? Il modo di funzionare del governo, del Parlamento, la legge elettorale e così via, che favoriscono questo breve termine. E questo breve termine rischia di essere la vera palla al piede del Paese, perché in ultima istanza è vero che quello che conta è l'economia, l'imprenditorialità, la tecnologia e così via, ma è anche vero che serve qualcuno che definisca le regole del gioco. E in questo momento, secondo me, molte regole non vanno bene e bisognerebbe rimettere mano a queste regole. Ecco, sono regole che spesso impediscono alle imprese di crescere, che favoriscono più la piccola impresa, la piccolissima impresa, pensiamo alle regole del mercato del lavoro, che non la grande impresa. L'Italia, nel suo libro si legge un po' tra le righe, avrebbe bisogno di qualche grande impresa in più. Certo, le grandi imprese non si possono creare da un momento all'altro, e anche le grandi imprese che ci sono sembrano volere un po' staccarsi dalla realtà italiana senza andare via, però comunque pensando all'Italia come una delle tante componenti della realtà multinazionale, mi riferisco, per non far nome, alla Fiat. Ecco, in questo senso l'Italia non è un ambiente accogliente per la grande impresa. Sì, questo diciamo è il vero elemento forse sul quale interrogarsi. Noi sostanzialmente siamo l'unico paese del gruppo del G7 nel quale le grandi imprese sono quasi tutte scomparse. Erano pubbliche e abbiamo provato a privatizzarle, e in realtà alcune di queste privatizzazioni non sono andate bene, alcune private sono venute meno, le poche che sono rimaste, a mio avviso, facciamo di tutto per scoraggiarle a rimanere in Italia, no? Tutto il dibattito che c'è stato in questi anni sulla Fiat era orientato quasi a convincere Marchionne ad andare via. E io penso che questa sia una delle cose su cui interrogarsi, cioè fare grande impresa in Italia è particolarmente difficile. Una delle ragioni è che, a mio avviso, la grande impresa trova l'ostilità di gran parte della politica, devo essere sincero. Certo, gran parte della politica, gran parte di chi fa politica, comprendendo anche il sindacato, quelle che possiamo chiamare le elite intellettuali. Lei in conclusione del libro dice che a questo punto serve un cambio di generazione per uscire definitivamente dalle divisioni novecentesche tra destra e sinistra, tra liberismo e socialdemocrazia, tra conservatori e progressisti. Servono intelligenze e risorse cresciute e maturate in altri climi culturali e sociali. Serve coraggio e anche fantasia. Ecco, un po' l'Italia è un po' bloccata sui vecchi schemi politici, tra le contrapposizioni, anche questo bipolarismo che sembrava essere una delle soluzioni si sta rivelando forse più un problema che una soluzione. Sì, perché è infarcito di vecchie ideologie. Tra l'altro, una delle cose sorprendenti che io trovo è che, mentre negli altri paesi sulle ricette di politica economica l'elettore ha chiarezza di quello che vuole dire uno schieramento e l'altro, quindi uno schieramento propone, che ne so, una ricetta incentrata su maggiore spesa pubblica e l'altro schieramento su un taglio della spesa pubblica e magari minori tasse. In Italia, in realtà, i due schieramenti sono confusi, e per cui troviamo statalisti sia nel polo che nella sinistra, troviamo persone che difendono la FIOM sia da una parte che dall'altra, e il risultato finale è che poi si affermano movimenti populisti come quelli che si stanno affermando in questo momento, perché l'elettore non è più in grado di stabilire qual è la ricetta di uno, qual è la ricetta dell'altro. Salvo poi pensare magari che i problemi vengono dall'esterno, dal fatto, per esempio, dalla moneta unica europea, non è colpa nostra, ma è che è stato l'euro a portare i problemi, cosa che non solo non è vera, ma in fondo i problemi nostri sono tutti nostri. Assolutamente sì. Prima diciamo era la Cina, no? Fino a qualche anno fa, certo, Non si faceva altro che dire che era la concorrenza cinese quella che causava tutti quanti i problemi, ora è diventato l'euro. Ci siamo dimenticati che l'Italia pre-euro non era certo un paese che cresceva molto, era un paese molto disordinato, con continue crisi anche finanziarie, svalutavamo continuamente la nostra valuta, quindi non è l'euro il problema. E tra l'altro, nonostante l'euro, ci sono paesi europei che crescono e che si sono ristrutturati, penso alla Germania. Certo. Quindi che hanno saputo prendere il dividendo positivo dell'euro, fare le ristrutturazioni necessarie. L'Italia invece ha sfruttato un po' l'euro, forse più per ampliare il proprio debito pubblico a tassi di interesse bassi che non per risolvere, come aveva promesso, anche pur gradualmente, un debito pubblico che continua ad essere molto alto. Grazie al professor Sandro Trento di essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato del suo libro Il capitalismo italiano, edito dal Mulino. Sono 210 pagine per 13,50 euro. È una storia dell'economia italiana in questi ultimi 50 anni, in cui appunto il modello economico e tutti i problemi legati a questo modello economico vengono messi in rilievo con grande efficacia e con grande razionalità. Grazie a Sandro Trento, grazie a quanti ci hanno ascoltato, così come ringrazio Paolo Corleoni in regia e Franco Piantadini in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.